ξαναδείς. Ο ήλιος πλένει το όνειρο της γης. Γιατί ποτάμι αγάπη και βαθύ κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Spiacere lasciamo questa bella canzone per andare a entrare nella nostra mini primeur di oggi. Come annunciato prima, si tratta della quarta parte dell'intervista di Adrienne Rich a Audre Lorde, tirata da Sister Out Sister Outsider. E abbiamo con noi nello studio Bianca e Flavia che ha curato la traduzione con Bianca. Vi saluto, buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao. Allora, quando volete. Allora, possiamo dire che comunque, se volete riascoltare le tre prime trasmissioni su dunque l'inizio di questa intervista, di questo confronto tra queste due poete, potete trovare le trasmissioni sul nostro blog mfla.noblogs.org. Grazie Silvia. Penso che dobbiamo rivendicare e utilizzare un vocabolario che è stato usato in maniera negativa e dispregiativa, e suppongo sia quello che affermi nei tuoi scritti, ciò che affermi più e più volte nella tua poesia. E non è semplicistico come dire nero e bello. Una macchina nera non ha nulla di bello. Sai cosa, Adrienne? Quando ero all'istituto, il direttore della rivista che pubblicammo mi disse, per sdrammatizzare, il fatto che mi aveva rifiutato una poesia. D'altronde, Audrey, a te non interessa essere una poeta sensuale? A me hanno detto che la mia poesia non doveva essere arrabbiata, non doveva essere personale. Quando pubblicai Usi dell'erotismo, varie lettrici mi dissero che era un approccio antifemminista, che utilizzare l'erotismo come punto di riferimento è antifemminista? E condannarci ancora una volta all'invisibilità e all'immobilità. I miei scritti ci collocavano, ci collocano di nuovo in quell'area di intuizione totale e aliena dalla comprensione. E dall'altro canto, in questo saggio parli del lavoro e del potere, le due cose più politiche che esistano. Sì, ma ciò che sono è una domanda che consiglio fin dall'inizio. Cerco di spiegare che l'erotismo è stato usato troppo spesso contro di noi. Lo stesso vocabolo di cui abbiamo imparato a diffidare così profondamente, ed è il mezzo con cui impariamo a testimoniare contro noi stesse, contro i nostri sentimenti. La conoscenza dell'erotismo è qualcosa che le donne possono utilizzare creativamente nella propria vita, per la propria sopravvivenza. Non è attraverso tattiche poliziesche o tecniche di oppressione che le persone arrivano ad andare contro se stesse, e attraverso l'indottrinamento che si arriva a diffidare di tutto ciò che si ha dentro e che non è stato classificato, e a rifiutare a priori la parte più creativa di se stesse, che però fortunatamente non si riesce a sradicare. Una donna nera che denigra un'altra donna nera, le donne nere che comprano una pinzetta per i peli e le mettono nel mio armadietto della biblioteca. Neanche fossero stati uomini neri, erano donne nere che agivano in prima persona. È inquietante e devastante che alcuni dei nostri migliori cervelli, alcune delle nostre donne più analitiche e creative, rifiutino l'erotismo, perché non si può combattere contro il vecchio potere solo con le sue armi. Possiamo solo combatterlo creando una struttura globale che tocchi tutti gli aspetti della vita. Creare mentre si resiste. Come dicevi quando parlavi delle lezioni, degli studi riguardo i neri e le donne, il discorso non è consentirci di avere una storia, una letteratura o delle nostre teorie all'interno del solito sistema di potere. È importante ogni minuto della nostra vita, da ciò che sogniamo mentre dormiamo fino al momento di svegliarci e lavarci i denti quando usciamo per andare a lezione. Alle donne nere e bianche si offrono vari stili di vita. Siamo circondate da insidie latenti diverse, dovute alle nostre esperienze, al nostro colore. I problemi che dobbiamo affrontare non sono sempre gli stessi, ma anche alcune delle insidie e armi utilizzate per neutralizzarci lo sono. Something's going on. It's time we take a break and talk a while. Now you know there's people of this world who have needs like you and me. So let's bring our hearts together, 'cause you know what the problem is. The cost of living is the cost. Oh yes. piacerebbe che approfondissimo di più questo, in relazione a te e a me e anche in generale. Credo sia necessario parlare di questo, scrivere qualcosa a riguardo, le diverse alternative e possibilità di scelte, di scelta che si offrono alle donne nere e bianche. Si corre il rischio di vederlo in termini di tutto o niente. Credo che il discorso sia molto complesso. Alle donne bianche si offre continuamente la possibilità di scegliere, o ciò che sembra la possibilità di scegliere. A volte è una possibilità reale, ma non sempre percepiamo questa differenza. Adrienne, nei miei diari ci sono molti frammenti di conversazione che mentalmente ho con te. Quando parlo con te lo annoto nel mio diario perché credo rappresenti le conversazioni che intercorrono tra le donne nere e la donna bianca. È qualcosa che trascende Adrienne e Audrey. È quasi come se rappresentassimo due voci distinte. Ti riferisci a delle conversazioni che esistono nella tua testa e nel tuo diario, o a una conversazioni che facciamo realmente? Sono conversazioni che vivono nella mia testa e che annoto nel mio diario. Questo frammento appartiene ad una di esse, una chiacchierata sui pericoli nascosti. Non ho dimenticato l'impazienza che c'era nella tua voce quando al telefono mi dicesti: non è sufficiente che mi dici che lo intuisci, ricordi? Non lo dimenticherò mai. Anche se capivo ciò che volevi dirmi, sentivo che stavi schiacciando il mio modo di fare, il mio modo di sentire ed esprimermi. Sì, ma non volevo affossare il tuo modo di fare, perché non credo che il mio non sia intuitivo, capisci? È una croce che mi porto dietro da una vita, il fatto che mi vedano razionale, logica, fredda. Non sono fredda, tantomeno razionale e logica in questa accezione. Probabilmente ho cercato di rapportare la tua esperienza alla mia. A volte ho bisogno che mi spieghino le cose per filo e per segno. Ho paura di scivolare nel "ah, certo, ti capisco". Ricorderai che questa conversazione telefonica ruotava intorno al saggio su femminismo e razzismo che stavamo scrivendo. Quello che volevo dirti era: non lasciamo che si arrivi al "non mi capisci" o "non riesco a capirti", oppure "sì, certo, come possiamo non capirci se ci vogliamo bene?". Tutte queste sono sciocchezze. Se ti chiedo dettagli è perché prendo seriamente questi spazi creati per la differenza, per il razzismo che ci separano. Ci sono dei momenti in cui non posso dare per scontato che so ciò che tu sai, a meno che non me lo spieghi. È che sono abituata a considerare che se mi chiedono dettagli è perché stanno giudicando le mie percezioni e stanno cercando di svalutare ciò che per me è in fase di elaborazione. Ma non è così. Aiutami a sentire ciò che tu senti. Questo è ciò che tento di dirti. Però i dettagli non aiutano a sentire. Nel migliore dei casi analizzano il sentire e nel peggiore dei casi creano una barriera protettiva contro il bisogno di concentrarsi nel punto chiave, approfondirlo e vedere come ci fa sentire. Conoscenza e comprensione, ancora una volta, possono funzionare in sintonia ma non sostituirsi una con l'altra. In ogni caso non rifiuto il tuo bisogno di documentarti. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum t Nella mini primer di oggi abbiamo ripreso la conversazione tra Adrienne Rich e Audre Lorde, e Flavia e Bianca prestano la loro voce a queste due poete. Il problema che c'è tra noi appartiene ad un'altra dimensione, una dimensione che certamente era presente in quella conversazione telefonica nella quale ti chiesi di spiegarmi tutto per filo e per segno. Alcune delle tue sensazioni creavano in me una grossa resistenza, le trovavo molto dolorose, le tue sensazioni riguardo a ciò che succede tra noi, tra il popolo nero e il popolo bianco, tra le donne nere e bianche. Non riesco ad accettare le tue sensazioni rimanendo imperterrita. Alcune le trovo davvero dure, ma neanche voglio rifiutarle. Non posso permetterlo. La soluzione sta nell'esaminarle per bene e dire: mi serve a qualcosa? Posso fare qualcosa con questo? Voglio provare a prendere le distanze e a non rimanere sommersa da ciò che così categoricamente affermi. C'è una parte di me che vuole opporre resistenza completamente ed un'altra che vorrebbe una piena accettazione, ed è tra le due che devo trovare il mio posto. Ma in nessun caso posso permettermi di annullare le tue sensazioni o fingere di comprenderle quando questo non succede. Quando si tratta di qualcosa legato al razzismo, inteso non solo come violenza dichiarata che si pratica lì, bensì come differenze nei nostri modi di vedere, ci si dovrebbe sempre chiedere: a cosa mi serve? Cosa posso fare? Fino a che punto posso sopportare di vedere questa verità e continuare a vivere senza diventare cieca? Fino a che punto posso servirmi di questo dolore? Non porsi questa domanda chiave, eludere questo passo essenziale, è il più grande errore per chiunque. Ricordi l'articolo che scrissi per The Black Scholar? Continuai a scrivere qualcosa di utile ma limitato, perché non formulai la domanda giusta. E non essermela posta, non aver compreso che la chiave era in una domanda, tolse molta energia all'articolo. Lo leggevo e lo rileggevo e pensavo: Non è così che dovrebbe essere. Pensavo che mi stessi trattenendo perché non rifiutassero The Black Scholar, ma il punto non era questo. Mi trattenevo perché non mi ero chiesta perché gli uomini neri considerano così minaccioso il fatto che le donne si amino altre donne, se non perché vogliono conquistare la posizione dell'uomo bianco. La questione era fin dove arrivava la mia capacità di resistere, e non mi ero accorta che non potevo resistere, che potevo resistere più di quanto credessi. Era anche capire come usare quella percezione senza che fossi né arrabbiata né distruttiva. Parlando di rabbia e distruzione, cosa volevi dire con i 5 primi versi di Power? La differenza tra la poesia e la retorica è essere disposta a uccidere te stessa al posto di uccidere i tuoi figli. Cosa sentì mentre lo scrivevo? Ero molto colpita da qualcosa che era successo. Il poliziotto bianco che uccise un bambino nero e fu assolto? A quel tempo, quando scrivi la poesia, capitò che mangiamo insieme e non smettesti mai di parlarne. Stavo guidando quando sentii per radio che avevano assolto il poliziotto. Mi sentii male per la rabbia e decisi di parcheggiare e scrivere qualcosa, in modo da evitare così di attraversare la città senza avere incidenti. Tanto male e furiosa mi sentivo. E scrissi questi versi. Mi venne automatico. La poesia nacque senza la minima elaborazione. Probabilmente te ne parlai per questo, perché non mi sembrava che fosse una vera poesia. Pensavo che l'assassino era stato un alunno del John Jay e che magari lo avevo incontrato per i corridoi, o che avrei potuto scontrarmici ancora. Questa poteva essere stata, quale poteva essere stata la sua giusta pena? Cosa si poteva fare? Tra la giuria c'era una donna nera, avrei potuto essere io. E io stavo dando lezioni al John Jay College. Avrei dovuto ucciderlo? Che posizione avrei dovuto prendere? Ucciderei anche la donna nera della giuria? Quale potere la proteggeva? E avrebbe protetto anche me qualora avessi preso una posizione? Contro 11 uomini bianchi? La paura atavica di un potere strutturato con il quale non si è d'accordo. Lì c'era la giuria, un potere maschile e bianco, una struttura maschile e bianca. Come potevo prendere una posizione contro tutto questo? Come affrontare queste differenze senza uccidere né essere uccisa? Come mettere in pratica ciò in cui si crede e viverlo non come teorie né come emozioni, ma come attività concreta che vede cambiamenti e risultati? Tutte queste cose presero posto in questa poesia, ma in quel momento non mi accorgevo e non comprendevo la connessione. Sapevo solo che io ero quella donna, e assumermi il rischio di ciò che andava fatto comunque e sempre era estremamente difficile e a volte decisivo, visto che rinunciare a fare significava la peggiore delle morti. Rischiare è come uccidere una parte di te, nel senso che rischiando uccidi o distruggi qualcosa di conosciuto, comodo, per permettere a qualcos'altro di nascere in noi, nel nostro mondo. La poesia in questione nacque dalla sensazione di scrivere al limite e in fretta, non per scelta ma per necessità, la necessità di sopravvivere, e nacque anche dal dolore per la seconda morte del mio figlio spirituale. Vivere secondo la tua prospettiva ti espone a costanti attacchi violenti, da una parte dei bisogni, delle paure, ma anche di miracoli e di potenzialità. E ciò che stavo... especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias y la elegancia solo es cosa de ego. La ropa con la que mejor me veo es la del alma. Ya aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdone, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que quieren saber todo lo que piensan con respecto a mí. Esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entre esté en su casa, que pasan las cosas. Pero los errores pesan, porque luego se arrastran, porque luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo sé extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Torniamo nello studio e stiamo ascoltando Bianca, che fa la parte di Adrienne Rich e che fa domande, ma anche più una conversazione che un'intervista, e Flavia, che fa la parte di Audre Lorde su un testo di Sister Outsider che hanno tradotto. E ciò che stavo per dirti, che ci parlassi dall'altra faccia. Sei sottoposta ad un bombardamento di meraviglie, di veri prodigi, come una pioggia di meteoriti da continue connessioni. Poi è importante separare ciò che è utile per sopravvivere da ciò che è distorto e distruttivo per sé. Questo è un grande lavoro, rifiutare le distorsioni, conservare ciò che ci serve. Dovremmo farlo anche con ciò che fanno le persone che ammiriamo molto. Sì, è compromettersi ed essere selettivamente aperte. Dovetti farlo per sopravvivere fisicamente. Come vivere con il cancro e non soccombere a una delle molteplici morti che mi minacciavano? Che dovevo fare? Quando ti confronti con questo lavoro, nessuno può dirti quali sono le tue possibilità. In ospedale non smettevo di pensare: vediamo, ci dovrà essere da qualche parte una femminista, lesbica e nera con il cancro, come lo affronterebbe? Dunque compresi. Tesoro, sei tu. Lessi tutti i libri che mi passarono per le mani e poi capii. Nessuno poteva farlo al posto mio. Dovevo decidere da sola. Dovevo trovare ciò che andava bene per me. La determinazione, la poesia, tutto ciò che emerge nella mia opera. Mi stavo ricordando di quel periodo in cui ti fecero la prima biopsia, nel 1977, quando insieme partecipammo ad un incontro a Chicago sulla trasformazione del silenzio in linguaggio e azione. L'organizzava la Modern Language Association e tu dicesti che non intendevi assolutamente andare, ricordi? Che non potevi partecipare, che non ne avevi bisogno, che non ti sarebbe servito a nulla. Però alla fine sei andata e hai detto quello che hai detto, e ti ha dato qualcosa, e non solo a te. Tu mi dicesti: perché non parli dell'esperienza che hai appena vissuto? E cominciai a lamentarmi. Ma se non ha niente a che vedere con l'argomento dell'incontro. Però, mentre lo dicevo, mi resi conto che si sarebbe parlato del silenzio, di trasformazione. Non avevo parlato della mia esperienza. Questo era silenzio. Potevo trasformarlo? Potevo stabilire una connessione? E soprattutto, come potevo condividere la mia esperienza? E mentre scrivevo la presentazione, le connessioni si chiarirono da sole. Questa presentazione la scrissi all'incirca nello stesso periodo di Litania per la sopravvivenza. Avevo la sensazione, una sensazione probabilmente fisica, che la mia vita non sarebbe più stata come prima. Se non avessi affrontato una serie di cose, prima o poi avrei dovuto farlo. Se non fosse stato per il cancro, per un altro motivo, avrei dovuto esaminare le condizioni e i mezzi, così come i perché della mia sopravvivenza, ed esaminarli considerando che stavano cambiando. La maggior parte del lavoro che feci in questo senso lo realizzai prima di sapere che avevo un cancro. In quella presentazione parlai della morte e del processo di morire, di come affrontare il potere e la forza, della sensazione cosa devo scontare? Domande che divennero fondamentali per me un anno dopo. Usi dell'erotismo lo scrissi 4 settimane prima di sapere che avevo un cancro al seno, nel 1978. È come ciò che dicevi prima riguardo allo scrivere poesie che non esistevano, ma che avevi bisogno che esistessero. Quella presentazione mi servì per risollevarmi ed andare a Houston e in California. Mi diede la forza di cominciare a lavorare nuovamente. Se non avessi parlato di quell'occasione, non so se sarei stata capace di scrivere ancora. Ed ora, come vedi, abbiamo chiuso un cerchio, perché è lì che si incontrano conoscenza e discernimento. Il discernimento trasforma la conoscenza in qualcosa di usufruibile. E lì risiede la prontezza, la forza, la spinta. Non so come ho scritto il lungo saggio che ho appena concluso, ma sapevo che dovevo farlo. Per capire ciò che sapevi e metterlo a disposizione degli altri. Giusto. Ora è un processo inevitabile, però nel mio caso bisognava sapere prima quello che sapevo. Bisognava sentire. Mamma già, niño, perché me haces mucho daño? Perché me cuentas mil mentiras? Y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, wow, wow. Y porque nunca quieres nada, a que a ti te comprometa, yo te voy a dar la espalda para que alcances bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Lo, lo, le, wo, wo. Voy a marcharme deprisa. Lo, lo, le, wo, wo. Y aunque tú ya no me quieras. Lo, lo, le, wo, wo. A mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí. Jodida pero contenta. Tú me has doblado. Eccoci di nuovo nello studio con Bianca e Flavia che stanno riprendendo una conversazione tra Adrien Rich. Ah, è finita? Ah, scusate. Prego, prego, è finita. Non avevo capito. No, ma infatti come interessante ho capito io che era finita. Sembra dunque sia... Sì, io vorrei rifare un po' il percorso della tua scelta, Flavia, di tradurre questa conversazione tra loro due. Che cosa ti ha spinto a farla? Allora, ero rimasta da poco senza lavoro, quindi mi serviva una cosa, una spinta, una cosa che mi piacesse per non pensare a come avrei fatto. Infatti per me Audre Lorde è una spinta, una grossa spinta. E impegnarmi mentalmente in questa traduzione è stato un modo anche per uscire fuori da quello che è stato un momento difficile per me. E grazie insomma a Silvia, le compagne della radio, a Bianca stasera e a Olga che adesso non c'è, che sono venuta fuori e sto ancora insomma anche in un momento difficile, però che mi ha dato la possibilità di fare altro. Mm-hmm. C'è qualcosa nel testo in particolare, una cosa diciamo quasi della vitalità di Audre Lorde che ti tocca in particolare? Di lei sì, l'importanza che dà al vissuto interiore delle donne, lei poi dice delle donne nere, della difficoltà che noi donne abbiamo in una società patriarcale maschilista dove per noi è difficile, e l'importanza della solidarietà, del riconoscimento delle differenze anche tra noi e della solidarietà tra donne e di farne una forza, sì, più che di fare come o non esistono o che le dobbiamo abolire o provare a non vederle o anche a diventare, cioè, un modello un po' unico. E infatti questo è il messaggio forte di Audre Lorde, di queste differenze esistono, perfetto che esistono, e di questo ne dobbiamo trovare una forza, esatto, collettiva. Esatto, esatto. La forza delle differenze. Sì. E poi tutta la cosa sul silenzio, che comunque sappiamo benissimo la sua frase molto molto conosciuta, che il silenzio non ti proteggerà. Esatto. E dunque la cosa di cambiare il silenzio in azione, la trasformazione del silenzio in linguaggio e azione, quindi dire tanto prima o poi moriamo tutte, quindi prima di morire, cioè esistiamo. Ci vorrebbero vedere morte, schiacciate, zitte all'angoletto, invece noi stiamo qui, adesso stiamo in radio e parliamo. Sì, sì, in radio, per strada. Per strada. Cioè, oggi abbiamo sentito le compagne delle Candie Sciolte che sono andate e hanno proposto di andare in strada per comunque farci sentire e riprendere lo spazio, perché se no, se rimaniamo in silenzio, comunque sia le relazioni tra la gente, diciamo tutta la società, comunque si scioglie e tra noi comunque non ci riconosciamo più. È vero, l'importanza degli spazi condivisi e comuni. Poi la forza dell'erotismo. Anche di non rinnegarlo. Infatti, perché comunque Audre Lorde, lesbica, cioè, riprende come forza interiore ma anche forza politica, sì, l'erotismo e il corpo lesbico, quasi lo potremmo dire, se faccio un po', certo, metto certo un po' della vitic dentro. Assolutamente, toglierlo come arma del potere che viene usato, cioè il corpo femminile come viene usato in maniera disgustosa, è riappropriarci della nostra dimensione, che è anche quella dell'erotismo, che spesso viene rinnegata, ma non va bene. Comunque noi nel martedì ti ringraziamo perché sono state molto quattro puntate molto interessanti e molto forti. Grazie a voi. E riprendiamo un po' la cosa, l'abbiamo detto in agenda, vai fallo tu. Dunque c'è per fortuna il progetto, perché comunque questo è un problema dei scritti di Audre Lorde che non sono stati tradotti in francese, sono stati tradotti alcuni ma non le poesie, per esempio, perché infatti la compagna che ha fatto la traduzione o la la pubblicazione diceva che tradurre le poesie è un lavoro enorme, sì. Invece il Saggi o anche il suo Zami è stato tradotto. E dunque c'è un progetto con il Dito e la Luna di traduzione di Sister Outsider, e c'è un appello a contributo, a un autofinanziamento, se ce lo puoi leggere ancora. Come no, sì, anche perché è la prima traduzione ufficiale che viene in italiano dei testi di Audre Lorde, è curata da Margherita Giacobino, Marta Gianello Guida, dalla casa editrice Il Dito e la Luna. Sorella Outsider, sarebbe Sister Outsider, e si può aiutare, diciamo, il volume uscirà in maggio e avrà un prezzo di copertina di 20 euro, però sì, possiamo contribuire alle spese di traduzione e stampa acquistando subito una o più copie a un prezzo unitario scontato di 11 euro, con un versamento sul conto corrente postale 337 57 204, intestato a Il Dito e la Luna, o mezzo PayPal scrivendo a Sorella Outsider, credo, sì. Sorella Outsider. Poi c'è tutto su internet. Perfetto, allora grazie a voi, e poi dunque non c'è più non ci vediamo più, troverai un'altra cosa da farci condividere con noi. Ne troviamo un'altra anche con Bianca, è vero. Ecco. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth.